Adele. Buongiorno Sì. a tutti. Niente, io volevo raccontare, mio papà è un ex macellaio e niente, praticamente lui aveva un modo che secondo me definirei quasi poetico di addirittura accarezzare la carne. Ricordo questi banchi di marmo bianco, quindi ghiacciato o altrimenti l'acciaio molto freddo. Le mani fredde perché d'inverno era addirittura senza porta la macelleria e accarezzava la carne, la porgeva in un modo alle signore, alle clienti, ai clienti, quasi appunto facendo diventare anche un pezzo che poteva essere un osso buco, per modo di dire, un gioiello. Cioè lui E accarezzava poi l'osso buco e la signora andava in sì. estasi. Adesso, senza entrare, prima ho ascoltato cose magari un po' più maliziose, magari c'era anche, cioè dipendeva dalla cliente, No, però. guardi, le posso dire una cosa, suo padre era un profeta antesignano.